esto es potrar, saltaré dentro, saltaré dentro. Chiediti, chiediti, chiediti quanto costa, chiediti, chiediti, chiediti che prezzo ha, chiediti, chiediti, chiediti se vale la pena, chiediti, chiediti, chiediti. Ormai non vedi, ormai non vedi, a tutto credi, tutto ciò che si para davanti ai tuoi occhi. Cercare uno squarcio di luce che dritta il cervello fulmina. Ma là poi ci siamo noi, pallidi, torna a guardare, a chiederci perché il tuo sogno ormai deve svanire. La domanda resta inesorabilmente la stessa. Il tuo cervello usa la testa non solo per il cappello. Usala, usala, usala. Prendi una strofa, poi dopo cambia nel senso. Prendi una strofa, non rimanere in silenzio. Ormai non vedi, ormai non vedi, a tutto credi, tutto ciò che si para davanti ai tuoi occhi non è reale. Star male, questo cercare uno squarcio di luce che dritta il cervello fulmina. Ma poi ci siamo noi, pallidi, torna a guardare, a chiederci perché il tuo sogno ormai deve svanire. La domanda resta inesorabilmente la stessa. Chiediti, chiediti, chiediti che prezzo ha. Chiediti, chiediti, chiediti se vale la pena. Chiediti, chiediti, chiediti. Usa la testa non solo per il cappello. Usala, usala, usala. Prendi una strofa, poi dopo cambia nel senso. Prendi una strofa, non rimanere in